Orfeo, Capitán Futuro. Strano Studio. Prendo ogni sentimento, lo interro qui dentro quando in te vedo l'inferno. La differenza che io accendo, sogni tu ti spegni lentamente dentro la tua stessa mente. Sono segni evidenti, non infrangi questa pelle. Internamente se tu ci guardi troverai quel dolore che resta sempre. Ma in questi versi inversamente a chi non pensa niente. Non resto nella nebbia mentre il resto resta assente. Ma cosa dici? Hai la testa immersa in 30 tipi di tentativi. Ma perdi tempo a trovare i punti ben sapendo che sono più quelli interrogativi a quelli di riferimento. Se il mio cuore fosse mare aperto, lascerei l'amore in armonia con tutto il resto. Se il dolore persiste cavalco il sample, rimo grezzo per sentirmi vivo dentro. Se il mio cuore fosse mare aperto, lascerei l'amore in armonia con tutto il resto. Se il dolore persiste cavalco il sample, rimo grezzo per sentirmi vivo dentro. E te lo ripeto. Non la infrangi questa pelle, non la infrangi questa pelle, non la infrangi questa pelle, non la infrangi questa pelle. Intraprendi una discussione, ma è come forzare una serratura. Come pensi di arrivare a un punto a tuo favore senza prima risanare ogni punto di rottura? Senza di te non ci sarebbe circostanza, come un aviatore con una varia al motore e basta. Eri la mia stella polare, ma io ero naufrago, sentivo navia ore di distanza quando sono steso sulla sabbia. Voglio scrivere guardando le stelle per abbandonare la rabbia. Mi sento un cardinale, nel senso che se chiudo gli occhi ti posso indicare il punto in cui il sole si alza. Il mio punto di vista è sfruttare l'intelligenza, intendo questa. Tu concentra il colpo invece di sparare a mitraglietta. Perché a che serve il fuoco dentro se poi brucia intermittenza? Punti di vista, punti di vista,